Dicono che sono ansioso, ma io me ne sbatto. Voglio ballare finché non mi è sceso tutto l'alcol. Ma che problemi che si fa la gente che parla tanto e non sa niente. Ho voglia di ballare sotto a questo temporale. La cassa che mi muove, è già passato anche Natale. Che cosa posso fare se non parlare della mia città? Mia città, mia città. Milano è la città che mi rispecchia l'anima. Sempre di fretta, vai bloccato in mezzo al traffico. Sono sul treno da 2 ore, ho pure perso le parole. Ho solo voglia di ballare con questa canzone. Con questa canzone qua, con questa canzone, con questa canzone qua, con questa canzone, con questa canzone qua, con questa canzone, con questa canzone qua. Ho voglia di cantare, anche se non so cantare. Sono preso bene, voi ci avete sempre da parlare, da parlare. In questa mia città, mia città, mia città. Se ci ho messo degli anni per lasciarmi andare, ma adesso nessuno mi ferma. Se prima scrivevo per dimenticare, adesso dimentico pure la penna. Qui sono tutti di fretta, ma io vado piano e blocco l'uscita. Qualcuno vorrebbe insultarmi, ma io me ne frego e mi godo la vita. Milano è la città che mi rispecchia l'anima. Sempre di fretta, vai bloccato in mezzo al traffico. Sono sul treno da 2 ore, oppure ho perso le parole. Le 16.06 siamo tornati in diretta, qui Carlotta e Riccardo da Fujiko Factory del martedì, e abbiamo un ospite d'eccezione oggi. Diamo il benvenuto al telefono Deli. Ciao a tutti. Ciao Deli. Ciao. Allora Deli, innanzitutto Deli è il tuo nome d'arte, poi lo spiegheremo, in realtà il tuo nome è Gabriele Deliperi. Sei uno spezzino trapiantato a Milano. Di spezzini ne abbiamo avuti anche un po', tra l'altro, a Radio Città Fujiko, quindi non sei il primo. E il 18 settembre è uscito il tuo singolo Future Vintage, che se non erro hai anche presentato alla finale del Bologna Musica d'Autore. Esatto, esatto, sì, abbiamo suonato giovedì scorso per la finale a Parco Villangeletti. Qui a Bologna, esatto, il BMA, Bologna Musica d'Autore, per chi non lo conoscesse, è la rassegna di Phonoprint dedicata ai giovani artisti. Allora, io ti voglio chiedere innanzitutto, partiamo dal titolo, no? Future Vintage, che significato ha? Cosa significa? Allora, Future Vintage, oltre ad essere il titolo del mio ultimo singolo, che appunto, come hai detto tu, è uscito su tutte le piattaforme digitali il 18 settembre, e è anche un po' il nome che ho voluto dare diciamo al mio genere musicale, per ribattezzarlo un pochino, nel senso che Future Vintage è una sorta di sincretismo fra elementi sonori tipici della musica dance anni 80 e tutte le peculiarità moderne delle canzoni che sentiamo, pop che sentiamo adesso, perché a me piace molto la dance. Però Future Vintage vuol dire anche non avere paura di spaziare, di lasciarsi condizionare, quindi unire il vecchio e il nuovo, vuol dire questo per me. Bellissimo, tra l'altro calza a pennello nella puntata di oggi, che abbiamo mischiato gli anni 60 con nuove sonorità, quindi esatto, perfetto. Effettivamente, davvero perfetto. Esatto, infatti io sono molto appassionato sia del punk che della dance, e infatti nel pezzo Future Vintage potete ascoltare sia il punk che la dance, perché mi piacciono sì. Tutti e due. Ti saranno piaciuti non molti Jackson 5, immagino, che abbiamo messo esatto. Prima. Esatto, e tra l'altro a me non piace l'omologazione, diciamo, anche se è necessario a volte essere omologati, però a me non piace. Quindi con Future Vintage intendo proprio il non avere la paura di spaziare e di utilizzare anche suoni o discorsi musicali che possano uscire un po' dal concept principale della canzone. Sì, molto interessante questa cosa, è veramente perfetto con la puntata di oggi in cui abbiamo messo anche i Beach Boys, che sono importantissimi per l'aspetto del produttore. Io volevo chiederti una cosa: quali sono i tuoi modelli di riferimento, comunque il personaggio a cui ti ispiri quando, perché ho visto che sei anche stato produttore, scrittore di testi, riarrangiatore, quindi hai un sacco di esperienza, e volevo sapere un po' i tuoi modelli di riferimento, i tuoi punti, ecco. Allora, io come dico sempre, ho due tipi di artisti di riferimento. Ho gli artisti per cui provo un amore platonico, che sono i Green Day, perché io ho iniziato a suonare con i Green Day, e gli artisti per cui provo un amore per la letteratura, la grammatica musicale che fanno, diciamo, in tutto il loro percorso, che sono The Weeknd, Dua Lipa e Justin Bieber per qualche canzone a livello di produzione, mentre The Weeknd lo seguo davvero tanto. Certo, The Weeknd pazzesco. Beh, ma noi infatti stavo ridendo sotto i baffi, ma perché noi per un attimo abbiamo rischiato di mettere i Green Days nella puntata sì, esatto. Green Day della puntata di oggi, quindi con Wake Me Up When September Ends ci cascava. Sì. Comunque condivido pienamente questo amore platonico per i Green Day, sono veramente fantastici. Anche io ho cominciato a suonare con i Green Day e sono sempre lì, sono sempre loro. Comunque sì, ottimi riferimenti. Tu sei tra l'altro giovanissimo, sei un 97, giusto? Sì, 22 anni, 23 a novembre. Ecco, quindi tu di musica già... nel mondo musicale già ci sei entrato come produttore, poi hai voluto dedicarti ad un progetto solista e esatto. Raccontaci un po' com'è nata questa cosa. Certo, allora io praticamente ho iniziato ad ascoltare musica, a suonare a 11 anni e ho iniziato a suonare la chitarra, come vi dicevo prima, e ho iniziato ad ascoltare i Green Day, quindi si sono formati i primi gruppi, ho sempre suonato punk rock e... tra l'altro uno dei gruppi più importanti che ho avuto, gli Alchimia, siamo riusciti a suonare anche all'Alcatraz. Poi vabbè, sono rimasto da solo, diciamo, e da lì è iniziato il progetto Deli, nel senso che io comunque ho sempre scritto per altri artisti e ho sempre prodotto. Da lì però avevo ancora dei brani, quindi li ho portati avanti, sono andato avanti, è nato il progetto Deli. Ho incontrato il mio attuale produttore, Massimo Forni, in arte Max, sì. E da lì poi è iniziato il vero percorso, nel senso che poi ci siamo dati delle scadenze, abbiamo iniziato a progettare, diciamo, un pochino il mio percorso. Chiaramente all'inizio non avevo un'idea di quello che volessi fare, infatti molto spesso un problema degli artisti è essere la brutta copia di altri, e quello era un mio problema, e ero super ansioso, tutte le sere ci pensavo perché mi sentivo sempre la brutta copia di altri, cioè nelle canzoni che scrivevo ritrovavo sempre, diciamo, degli spunti presi da altri artisti, cioè proprio, e quindi mi sentivo la brutta copia, fino a che a un certo punto ho iniziato, diciamo, a utilizzare suoni retro, quindi future vintage, anni 80, dance, e cercare di unirli un po' alle metriche del punk e alle ritmiche del punk. È venuto fuori poi Future Vintage e molti altri brani che poi sentirete quando usciranno. Quindi così è nato il progetto, diciamo, e soprattutto Max mi ha aiutato a tirare fuori questo lato di me. E questo nome, Deli, da dove salta fuori? Deli è il diminutivo del mio cognome. Ah, ok, perfetto. Deliperi, esatto. Ricordiamolo, esatto. Però c'è una H. Esatto, c'è una H, e questa H deriva proprio dal fatto che nella mia città, a La Spezia, c'è un altro producer che si chiama Deli, senza H, e allora deriva da quello, cioè semplicemente... Ah, ok, no, pensavo fosse proprio... riferito alla città, a un certo punto ho detto che una connessione no. Magari con Nuova Deli. Invece... Tra l'altro la scelta della posizione della H è stata una cosa molto ardua, perché in base a dove metti la H ti escono le playlist indiane su Spotify. Cosa? Cosa? Aiuto! Sì, perché praticamente c'è la città, Deli... E quindi in base a tu dove metti la H praticamente ti escono meno le playlist indiane, musica indiana. Wow, perché ma che fatica. Sì. Comunque sì, hai tirato fuori un dubbio, un problema in realtà che hanno molti artisti, ed è bello sentirlo dire, proprio quello di non dover assomigliare a qualcun altro, che è la sfida più difficile attualmente con la musica che è totalmente libera. Artisti emergenti fanno molta fatica in questo, ed è bello sentirlo dire da un artista emergente che si pone il problema e tutto. Secondo me è più, come dico sempre, e come appunto diciamo sempre anche con il mio team, che vorrei ringraziare Indica Records, Elia, Nick, insomma tutte le persone che ora stanno lavorando con me anche per pensare all'uscita di un EP futuro. E io come dico sempre, secondo me fare questo lavoro è più un lavoro mentale, di guerre interiori e di esami di coscienza che non altro, perché poi sai, alla fine uno può anche dirti basta comprare una chitarra, sai, quel pezzo uno se lo scrive, non è proprio così. No, beh, assolutamente, insomma, uno, capito? Sì, sì, c'è un grande intermezzo personale. Alla fine bisogna essere anche molto stabili, perché ci si esamina dentro, ci si guarda dentro quando si compone per portarlo fuori. È un lavoro molto stancante a livello mentale, hai completamente ragione. Beh, quindi tanto di cappello ancora di più, insomma, anche per questa maturità già che hai e questa umiltà, no? Nonostante la tua giovanissima età. Adesso sembriamo vecchi davvero, comunque, come stiamo parlando. Io ho 22 anni anch'io, te Carlotta cosa hai, 2 anni in più di me? Cioè, sì, no dai Carlotta, sì. sembriamo i due nonni allora. Qua. Viva i giovani! Giovani, mamma mia. Dai, poi quando ritorno a Bologna allora ci vediamo, andiamo a giocare a boccia, visto che siamo... Bomba. Esatto, alla bocciofila qui in zona Pescarola, assolutamente. Bomba, bomba. Il nostro numero ce l'hai, noi abbiamo il tuo. Noi abbiamo le bocce, siamo perfetti, a posto. Allora Deli, parliamo invece del BMA, no? Perché tu sei stato selezionato tra i 6 artisti che poi sono arrivati in finale il 17 settembre, come ricordavi tu, quindi raccontaci un po' di questa esperienza. Cosa è stato per te anche entrare in contatto con gente già insomma affermata nel panorama musicale? C'erano ospiti per esempio come Bugo, Leo Gassman, raccontaci un po'. Certo, allora intanto è stata un'esperienza bellissima e è stata un po', come si suol dire, la luce in fondo al tunnel, nel senso che io quando mi sono iscritto al BMA eravamo ancora in quarantena e il lockdown, e praticamente quando sono stato contattato, diciamo, ho saputo che ero in finale, ero felicissimo perché comunque poi era appena uscito il mio singolo Milano a maggio, e quindi ero molto felice. Poi abbiamo fatto la prima tappa, che inizialmente era un live negli studi Phonoprint, e abbiamo fatto la prima tappa e lì già ho conosciuto un po' di persone, insomma è stata veramente una figata. E invece la finale ancora di più, nel senso un po' con l'amaro in bocca, perché comunque dovevamo fare molte altre date e che chiaramente per ovvi motivi non siamo riusciti a fare. Abbiamo fatto la finale ed è stata super perché c'era un sacco di gente, un sacco di ospiti, c'era un sacco di calore da parte di tutti, cioè è stato proprio un ambiente positivo, una serata positiva. E tra l'altro ho conosciuto anche poi Leo Gassman, ci siamo scambiati due parole e tra l'altro gli ho detto sai, quest'anno mi voglio iscrivere a Sanremo Giovani, fa fallo perché è una bellissima esperienza. Quindi insomma, cioè è stata veramente una serata bellissima, dove poi tra l'altro ho anche presentato in anteprima il singolo Future, esatto. Vintage, perché poi a mezzanotte sarebbe uscito su tutte le piattaforme di streaming. Che bello, tra pochissimo lo ascolteremo, quindi un'emozione. E allora ti facciamo anche in bocca al lupo per questa futura esperienza a Sanremo Giovani. Assolutamente, auguri. E come ultima domanda, così per chiudere, quindi quali sono i tuoi progetti futuri o diciamo prossimamente? Allora, io sto pensando insieme appunto al mio team di Indica Records ad un EP di 5-6 tracce che uscirà l'anno prossimo, uscirà in primavera l'anno prossimo, però a novembre farò uscire la cover di una canzone che a me piace molto, che si chiama, la canzone si intitola Divorato, l'artista è Lord Payne, e farò uscire questa cover diciamo in omaggio a quest'artista a metà novembre, sempre su Spotify. Quindi, e poi vai, chiaramente ci saranno altre uscite prima dell'EP, ma se ne parlerà l'anno prossimo. Ok, allora grazie Deli per essere stato ospite ai nostri microfoni, ti auguriamo grazie ovviamente tanta fortuna per i prossimi progetti, per questo singolo e per la partecipazione a Sanremo Giovani. E adesso facciamo sentire Future Vintage di Deli. Ogni tanto me ne vado con la testa, poi ritorno, sempre in difetto nel mio corpo. troppo. Mi sento in soggezione ovunque ci sia gente. Per non dare fastidio me ne sto sempre sul bordo. Quei giorni sono passati adesso che ho capito quanto valgo. Faccio ciò che voglio, non hai capito. Mollo tutto e lascio voi alle discussioni inutili. Voglio cantare le canzoni che mi pare. Voglio esagerare, ascoltare i tuoi consigli e non seguirli. Non ti preoccupare, tatuarmi quello che voglio senza dovermi giustificare. Arrivare all'altare, fammi respirare, non ci voglio pensare. Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Io mi sento future vintage come la regina Elisabetta che si veste Fendi, o come gli anni 80 che sta riportando Deli. Nel 2020 siamo pieni di commenti, pieni di difetti. Pensare che di me non accettavo niente, alle battute rimanevo indifferente, ma stavo male. Poi ho capito che per battere sta gente serve far vedere quanto ci si diverte. Voglio cantare le canzoni che mi pare. Voglio esagerare, ascoltare i tuoi consigli e non seguirli. Non ti preoccupare, tatuarmi quello che voglio senza dovermi giustificare. Arrivare all'altare, fammi respirare, non ci voglio pensare. Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Lasciatemi stare. Io sono future vintage. Future vintage me ne voglio sbattere in eterno, come a Milano la statua del dito medio. Guarda come sorrido quando divento un simbolo. Ballo sotto la